Se cammin della montagna, su e giù per la città, con la sorra aspetti in mano, che il cammin da fa spassare. Spassare. Cammin della montagna, su e giù per la città, con la sorra aspetti in mano, con la sorra aspetti in mano. Salta fuori una vedovella, salta fuori la ledinca. O venite galantuomo, che il cammin da fa spassare. Salta fuori una vedovella, salta fuori la ledinca. O venite galantuomo, o venite galantuomo. Cammino entri in casa, al tirafer al sorospi, e poi dopo si navia per la capa del cammino. Passa cammino, entri in casa, tirafer al sorospi, e poi dopo si navia, e poi dopo si navia. Spazza cammino, entri in casa, tira fuori al sorospi, e poi dopo si navia per la capa del cammin. Il cammin l'è ben pulito e ben spassato. La signora entra in casa, tutta pronta per pagare. E il camille ben pulito e ben spassato, la signora la entri in casa, la signora la entri in casa. E il camille ben pulito e ben spassato, la signora la entri in casa, tutta pronta per pagare. E mi venne panne, vinne, denari, né quattrin. Voglio solo la bicicletta per andare fino a Turin. E mi venne panne, vinne, denari, né quattrin. Voglio solo la bicicletta, voglio solo la bicicletta. E mi venne panne, vinne, né denari né quattrin, voglio solo la bicicletta.